Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.